si venia crudel, che tal vendeggio non ardi con ragion, torna in te stesso. Mira, mira una volta di qual sangue hai sé. Questi è figlio innocente di troncon tuo monarca, di lui parte più cara non potea consegnarti. Se alla tua fe creduta affido col figlio ancora il regno tutto, l'altro che tenti di tradire è Cino, gran ministro ed amico. Pensa e rifletti. Indietro, mannati e mogli affetti, vi detesto, fa porno. Pensier che non consenta quel desio di regnar, folle pensiero. Amo Zidiana, ma di amor si forte che non direi il suo bel, ma del suo trono la parte più temuta e più gloriosa. Sì, sì, voglio seguire con franco ardire il destin che mi guida, e par mio mai stringer lo scettro e dar le leggi al mondo. Oh, a dispetto d'invidia ed un sognato onore, montar sul soglio e farmi re e signore.